625, focaccia alla portoghese. Questo ve lo do per un dolce assai delicato e gentile. Mandorle dolci, grammi 150, zucchero grammi 150, farina di patate grammi 50, uova numero 3, aranci numero 1,5, lavorate dapprima i rossi d'uovo con lo zucchero. Aggiungete alla farina, poi le mandorle sbucciate e pestate fini con una cucchiaiata del detto zucchero e dopo il sugo passato dagli aranci e la buccia superficiale raschiata di un solo arancio. Per ultimo unite al composto le chiare montate, versatelo in una scatola di carta unta di burro alla grossezza di un dito e mezzo e cuocetelo al forno a modestissimo calore. Dopo cotta, copritela di una crosta bianca, come al numero 789.